my big man, 10216. Che ci vuoi fare? Yes, 2011. Bella SLP, reggaeton. Ok. Di rispetto, se non capisti un dialetto, cazzi tua, dopo aver sentito sta canzone non dormisti più, sono sempre cazzi tua, te lo dico anche in dialetto, ma comunque non abiti neanche una casa tua, rispetto prima di tutto, e dopo se vuoi parliamo anche del resto, in questo mondo che c'è sempre un arresto, resto fino al mio arresto, so che mi chiedisti come faccio i pari, ricorda nella vita non c'è niente da regalare, magari se ci fosse qualcosa da incassare, ma c'è gente che catuna anche il mare, questo ricorda sempre c'è da capire, ci sta di mezzo sempre un rispetto, hai sbagliato se pensi che sei un reggaeton lento, forse sento tu a capire quello che ho detto, amico non è che ce la scambia, se il modo di fare non cambia, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? La vita è così, la vita è così, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? La vita è così, la vita è così, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Ci sono troppe ragazze che fanno le troie, come in discoteca, si giucciano con te, e prima di venire da te sono andati con altri tre, la seconda cosa ancora peggio. Ti metti con una e ti accorgi di star meglio di quando eri solo, la vedi sotto casa con un ragazzo moro, si baciano, si abbracciano, tu perdi la testa, vai sotto casa e gli spacchi la testa, le piange e urla, non fargli del male, io gli dico stai zitta e vai a cagare. Ci sono troppe troie in questo mondo, ragazzine di 12 anni che vogliono fare film porno, che si fanno fare i documenti falsi per entrare nelle discoteche, prenderlo in bocca dai ragazzi, dai com'è. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? La vita è così, la vita è così. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? La vita è così, la vita è così. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Yo, SLP, Mol Big Man. E G16, TML, Yatu Save.